Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. È stato ucciso a Roma l'uomo che era considerato il cassiere di Gennaro Mokbel, implicato nella vicenda Fastweb Telecom Italia Sparkle. È stato trovato ferito in strada un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe aver fatto parte del comando. Due ore d'incontro, poi la notizia che il patto regge, c'è accordo a quanto pare tra Renzi e Berlusconi sulle riforme, tempi brevi anche sulla legge elettorale, in vista anche l'incontro col Movimento 5 Stelle. Non mi fanno paura i cani da guardia della Germania, dice il presidente del Consiglio, il commissario Barnier. In Italia i tempi non sono maturi per gli eurobond, dice. Almeno due naufragi di immigrati negli ultimi giorni nel canale di Sicilia, riferisce l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Incerto il numero delle vittime, probabilmente più di 70. Mondiali, il ritorno degli sconfitti. Capello chiamato nel Parlamento russo a giustificare l'esito del torneo. Prandelli verso la guida del Galatasaray. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete potete contattarci al 349-238-6666 durante la trasmissione, oppure scriverci effettogiorno@radio24.it, oppure rivolgervi direttamente a me su Twitter, mi trovate Simone Spezia. Parleremo anche di Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha mobilitato forze di fanteria nel sud di Israele, notizia di poco fa, a seguito dell'escalation con Gaza, da dove continuano a aggiungere missili. Nel frattempo lo stesso esercito israeliano, e anche questa è una notizia di pochi istanti fa, anzi la polizia israeliana è in cerca di una donna nel nord del paese dopo che questa ha fatto una telefonata allarmata e ha detto di essere stata attaccata. Poi la comunicazione si è interrotta, elicotteri militari stanno setacciando la zona che è quella di Malot nel nord, da dove è stato tracciato il cellulare della donna. Ci verremo più avanti. Intanto la cronaca italiana con l'agguato, quello che sembra essere un vero e proprio agguato questa mattina, sulla Camilluccia nella zona nord di Roma. Un maxi riciclaggio transnazionale, in questo era coinvolto Silvio Fanella e per questo era stato condannato a 9 anni in primo grado ed era ai domiciliari, in via Gandolfi, una piccola traversa senza uscita di via della Camilluccia. In un primo momento si era pensato a una rapina, ipotesi subito tramontata una volta identificata la vittima. Gli aggressori si sono introdotti nell'appartamento con una scusa e hanno colpito Fanella al petto. Prima di morire però la vittima ha reagito ferendo uno dei suoi assassini. L'uomo è stato poi abbandonato nel cortile dello stabile e ora versa in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Silvio Fanella era legato al faccendiere Gennaro Mokbel, imprenditore al centro di numerose inchieste, con legami che vanno dall'estrema destra all'andrangheta. Condannato a 15 anni nell'ambito di quel maxi riciclaggio internazionale da quasi 2 miliardi, messo in atto tra il 2004 e il 2007 e che si basava su false fatturazioni telefoniche, coinvolgendo Fastweb, Telecom Italia Sparkle e Swisscom. Fanella, assieme a Mokbel, era ritenuto uno degli elementi del raggiro, avrebbe organizzato, diretto e controllato assieme ad altri il materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all'erario e il relativo reinvestimento in attività lecite ed illecite, così nel capo di imputazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è arrivata anche qua pochi istanti fa dalla polizia, dalle forze dell'ordine, la notizia che si chiama Giovanni Battista Ceniti ed è originario di Genova. L'uomo ferito e ricoverato al Policlinico Gemelli in gravissime condizioni dopo la sparatoria avvenuta appunto in via Gandolfi. Da quel che si apprende, appunto, l'uomo era uno dei tre membri del comando che ha freddato Fanelli. Secondo alcune indiscrezioni circolate e riferite da Repubblica.it, l'uomo sarebbe legato a Casa Pound. Naturalmente è tutto incerto al momento e vedremo se ci saranno aggiornamenti ulteriori e ulteriori dettagli da darvi nel corso di Effetto Giorno, nel corso della giornata. Intanto parliamo di riforme, perché questa mattina di buon'ora Matteo Renzi e Silvio Berlusconi si sono incontrati. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Eh sì, proprio così, e la notizia è che l'incontro di 2 ore a Palazzo Chigi ha sancito la tenuta del patto del Nazareno tra il Premier Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, tra il Premier Matteo Renzi e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, l'accordo che era stato fatto, ricordiamo, a gennaio nella sede del PD, ottiene di nuovo il via libera di Forza Italia e Gli azzurri danno anche il via libera alla riforma del Senato non elettivo. È stato confermato l'impianto dell'intesa sulle riforme raggiunta nei mesi scorsi, dice Guerini, del PD. L'accordo regge, la legge elettorale sarà discussa subito dopo il voto sul Senato e dunque prima dell'estate. Ricordiamo che l'Italicum ha già ottenuto un prima via libera dalla Camera. Comunque, quello che dice anche Guerini, che ha aperto il dialogo con tutti, anche con i 5 Stelle, e sulle preferenze il tema è aperto. Ma sembra invece che il Cavalieri sia stato rassicurato dal Premier che l'Italicum resterà invariato e le preferenze saranno escluse. C'è attesa quindi, per quanto dirà Berlusconi ai suoi, nell'assemblea prevista qui alla Camera alle 15, il commento di Beppe Grillo non si è fatto attendere. Il fatto che il patto del Nazareno regga è pazzesco, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Intanto il ministro delle riforme Maria Elena Boschi conferma che resta il Senato non elettivo e per martedì ci saranno gli ultimi voti in commissione. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Noi torniamo sulle vicende europee dopo l'intervento di ieri di Matteo Renzi all'Europarlamento in apertura del semestre italiano. Stanno arrivando proprio in questi minuti delle indicazioni dal PPE, il Partito Popolare Europeo. Il tema è sempre quello della flessibilità di bilancio. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dibattito sul semestre europeo a guida italiana che ruota attorno alle parole di ieri del Premier Renzi. L'Europa deve ritrovare anima, coraggio e orgoglio e puntare decisamente sulla crescita perché altrimenti non avrà futuro. In pratica più flessibilità nelle scelte europee. Parole quelle del Presidente del Consiglio che non sono piaciute però ai cosiddetti rigoristi rappresentati nell'Europarlamento di Strasburgo dal PPE, nella persona in questo caso del tedesco Manfred Weber, astro nascente del partito alleato di Angela Merkel, per il quale i debiti non creano futuro, lo distruggono. Per questo è la sua tesi: dobbiamo continuare sulla linea del rigore, posizione questa però che rischia di mandare a monte gli accordi sui futuri vertici comunitari. A questo hanno alluso le reazioni del fronte socialista in Parlamento, a partire dalla stessa nomina di Juncker. Quanto al rigore e alla Germania, invece, lo stesso Renzi ha ricordato che proprio a Berlino in passato venne concessa più flessibilità e la possibilità di violare i limiti, e questo gli ha permesso di essere oggi un paese che cresce. Ma il PPE in questo caso deve correggere o quantomeno intervenire sulle parole di ieri del suo rappresentante all'Europarlamento, e oggi ufficialmente dice non deve esserci nessuno cambiamento o concessione motivata da ragioni politiche alle regole del patto di stabilità e della governance economica. Questa dunque la posizione del PPE. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, ed è da qua che partiamo per commentare insieme a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Dino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, abbiamo questo documento programmatico del PPE del quale stanno iniziando a circolare i dettagli. Si dice non deve esserci nessun cambiamento o concessione in merito al patto di stabilità o concessione motivati da ragioni politiche. Oggi il tuo editoriale sul Sole 24 Ore si intitola sulla flessibilità una strada in salita. In effetti mi sembra che ci sia la conferma da qua, no? Direi di sì, la strada è in salita proprio per l'intreccio di motivi politici che ancora registriamo, e soprattutto lo registriamo alla luce di quello che è accaduto ieri con il capogruppo del PPE che ha detto chiaramente, Weber, ha detto chiaramente a Renzi che i paesi con alto debito devono ridurlo questo debito, e quindi guai a parlare di flessibilità. Tenendo conto che però molto è nella tradizione anche degli schemi politici e negli equilibri che vanno determinandosi tra Bruxelles e Strasburgo, io credo che la vera partita la si aprirà con la nuova commissione e dunque a novembre, quando il governo Renzi dovrà andare a contrattare spazi di flessibilità che poi in sostanza sono quelli previsti dal patto di stabilità e di crescita. Non è che si tratta di immaginare chissà quali sconti, si tratta ad esempio di dire noi siamo un paese che a fronte di determinate riforme che sono state fatte chiede magari un anno in più per rientrare nella regola del debito. Non stiamo immaginando strategie mirabolanti, però dovrà farlo con una nuova commissione che avrà tutto l'interesse secondo me, a mostrare come dire, un'anima anche meno eccessivamente rigorista. Senti Dino, quindi mi sembra di capire da quel che ci dici che anche questo scontro, anche le parole di Weber di ieri, quello che scrive il PPE oggi, faccia parte di una sorta di gioco delle parti quasi necessario in questa fase di trattative anche sui nomi e sulla futura commissione. In parte credo di sì, in parte rientra anche negli equilibri politici tutti interni alla Germania. Sappiamo che Angela Merkel fa una certa fatica a tenere a bada, come dire, gli empiti rigoristi o iperrigoristi che albergano in parte la sua maggioranza. Lei ha una maggioranza composita, quindi deve far fronte a spinte concentriche che arrivano dall'una e dall'altra parte. Io credo che la sintesi avverrà, ci sarà un margine, da questo punto di vista sono abbastanza ottimista, non abbiamo da attenderci clamorose concessioni, la strada è tutta in salita, lo confermo, perché andrà conquistata metro per metro, però è la strada, perché francamente non vedo alternative alla possibilità che l'Europa debba incanalarsi finalmente in un sentiero di crescita e di sostegno allo sviluppo e all'occupazione, viceversa facciamo tutti un passo indietro e andiamo a sbattere contro il muro, e questo credo che non sia nell'interesse nemmeno della Germania. Grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore, e andatevi a leggere il suo commento oggi sul giornale. Intanto ci sono i dati dell'Istat di oggi sui prezzi delle case, dati che riguardano in realtà gli ultimi 4 anni, che comunque colpiscono. Sentiamo. Continua il trend negativo del mercato immobiliare, che sposa oggi compravendite in lieve ripresa e valori ancora in calo. L'indice Istat sui prezzi delle case nel primo trimestre 2014 segna una discesa del 4,6% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Nello stesso trimestre le compravendite residenziali sono salite del 4%, dati dell'Agenzia del Territorio. Negli ultimi 4 anni, quindi, i prezzi delle abitazioni sono scese del 10%, appesantiti soprattutto dalle costruzioni esistenti, mentre il nuovo resiste, anzi segna quotazioni in lievissimo rialzo. Della discesa dei prezzi beneficia il segmento delle seconde case, che vede compravendite in aumento in un segmento caduto nel dimenticatoio, complici anche le pesanti tasse. Paola Dezza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente su questo calo dei prezzi delle case, su questo mercato immobiliare che non tira, ha pesato anche una stretta del credito abbastanza evidente anche nei confronti delle famiglie. Di questo si è parlato questa mattina in una giornata delicata, ce la racconta in diretta a Roma Massimiliano Zampini. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a te Simone. Sì, si è parlato di credito negli stati appunto generali del credito alle famiglie, un tema interessante, un tema di strettissima attualità, e durante questo incontro è stata presentata una ricerca piuttosto interessante, dalla quale emergono due dati degni di essere raccontati. Il primo riguarda il fatto che 4 italiani su 10 ritiene che appunto il credito debba essere incentivato e facilitato, perché solo così si può favorire la ripresa economica. Quindi gli italiani, popolo, tendenzialmente i risparmiatori, chiedono credito perché sennò l'economia altrimenti non si riprende. Il secondo elemento interessante di questa ricerca presentata oggi riguarda il fatto che rispetto al passato, quando per concedere credito alle famiglie si guardava soprattutto al patrimonio, alla situazione appunto, ai beni che si possedevano, oggi si guarda più alla situazione reddituale, quindi alla capacità di produrre reddito e ai comportamenti del consumatore stesso. Quindi questo è un altro elemento interessante. Sullo sfondo di tutto ciò c'è la stretta creditizia di cui tu parlavi e di cui vengono accusate da tanto tempo le banche, eppure le banche vedono le cose in miglioramento, e quindi ti faccio sentire a questo riguardo il direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini e poi ti restituisco la linea. Cominciamo a vedere alla fine di questa crisi i primi segnali positivi di ritorno del credito alle famiglie. Da gennaio di quest'anno i mutui stanno crescendo a un ritmo del 28% su base annua. Cominciamo a vedere anche dei segnali positivi nei confronti delle imprese, i dati sul leasing sono tornati a crescere, e quindi credo che con il ritorno di domanda di credito, soprattutto di domanda di investimento, le banche che operano in Italia saranno pronte a soddisfarla. Grazie intanto a Massimiliano Zampini. Mi ha raggiunto in studio il nostro Carlo Genta in questa giornata di pausa per i mondiali. Vigilia. Chiamiamola di vigilia, e però vogliamo parlare un po', abbiamo titolato prima, no? Il ritorno degli sconfitti, per parlare di due casi che ci interessano, ossia gli italiani, Prandelli e Capello. Allora Prandelli sembra ricomincerà subito a lavorare in un'altra dimensione con un'altra squadra che si chiama Galatasaray. C'è un'offerta e a quanto pare Prandelli sarebbe disposto ad accettare subito questa offerta, e secondo me fa benissimo, anche perché è meglio uscire subito da quella situazione e tuffarsi in una nuova avventura. Tra l'altro sappiamo come Galatasaray fosse allenato da Roberto Mancini, no? Esperienza non fortunatissima. Adesso Prandelli potrebbe andare lì e insomma ricominciare una vita diversa, potrebbe essere un'eccellente soluzione per lui. Mentre invece Capello, un vero e proprio Capello ha una situazione divertentissima, perché ieri ho giocato molto su questa agenzia che è uscita, dovrà andare a presentarsi in Parlamento e riferire sui motivi del fallimento. Quindi una cosa molto ufficiale, sappiamo che i russi non scherzano per nulla con queste cose. E allora il CT, che prende 8-9 milioni di euro netti l'anno, dovrà andare lì e giustificare il suo compenso. Addirittura qualcuno dice che gli chiederanno di lasciare sul tavolo un po' di denaro, perché il risultato raggiunto non è stato accettabile, e dunque Capello dovrà fare questa cosa. Non lo invidio per niente. Tra l'altro non dimentichiamo che insomma in Russia c'è grandissima attenzione, perché sai dove saranno i prossimi mondiali fra 4 anni. Certo, naturalmente. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ucciso a Roma l'uomo che era considerato il cassiere di Gennaro Mokbel, implicato nella vicenda Fastweb Telecom Italia Sparkle. È stato trovato ferito in strada un 29enne, secondo gli inquirenti potrebbe aver fatto parte del comando. Notizia di poco fa, il PM Eugenio Fusco ha chiesto la condanna a 6 anni di carcere per l'ex amministratore delegato e presidente di Finmeccanica Giuseppe Orsi, questo nel processo in corso a Busto Arsizio per corruzione internazionale. 2 ore di incontro, poi la notizia che il patto regge, c'è accordo tra Renzi e Berlusconi su riforme e legge elettorale. Non mi fanno paura i cani da guardia della Germania, dice il presidente del Consiglio Renzi, e il PPE intanto precisa, non ci vogliono modifiche al patto di stabilità. Almeno 2 naufragi di immigrati negli ultimi giorni nel canale di Sicilia, incerto il numero delle vittime, probabilmente più di 70. Saluto Stefano Torelli, che è ricercatore dell'ISPI. Buongiorno Torelli. Buongiorno a voi. La chiamiamo per parlare di Medio Oriente, della situazione tra Israele e la striscia di Gaza. Questa mattina l'esercito ha mobilitato forze di fanteria nel sud di Israele a seguito dell'escalation con Gaza, da dove continuano a giungere missili. 2 razzi questa mattina hanno colpito 2 edifici a Sderot, cittadina bersagliata a ridosso della striscia. Vorrei chiederle, Torelli, che sbocchi vede in questo momento, in questa situazione. Pensa che Israele procederà con un'offensiva su vasta scala? Ma, diciamo, questa era la sensazione che insomma tutti avevano nell'immediato, insomma, appena i 3 corpi dei 3 ragazzi rapiti sono stati ritrovati. Israele ha, come sappiamo, effettuato subito dei bombardamenti come reazione immediata nella notte tra lunedì e martedì a Gaza, però poi in effetti insomma la posizione del governo israeliano è stata un po' più cauta. Diciamo, lo stesso Netanyahu, secondo fonti israeliane, addirittura ha dovuto un po' arginare le pressioni della parte più oltranzista del suo governo, che voleva invece una reazione molto più massiccia, appunto, e su vasta scala. Diciamo lo spostamento di truppe verso il sud e verso anche Gaza non per forza dovrebbe essere diciamo di preparativa ad un'azione di più vasta scala. Il fatto che Israele ancora adesso, a distanza di due giorni, non abbia, a parte i primi bombardamenti, diciamo, organizzato altre operazioni militari, potrebbe anche far intendere che in effetti Israele stia valutando e aspettando, perché in ogni caso una qualsiasi operazione più ampia, come accade del resto spesso in quell'area, potrebbe avere anche dei risvolti negativi per Israele stesso. Perché tra l'altro Torelli, insomma, la situazione dell'area è tutt'altro che serena, dell'area nel suo complesso, no? Esatto, diciamo che rispetto alle altre crisi che Israele negli anni passati ha affrontato con Hamas, con parti del movimento palestinese, adesso è proprio la situazione regionale che è cambiata in toto. E quindi, insomma, io non so quanto aggiungere un altro focolaio di conflitto possa giovare alla stabilità dell'area, ma in realtà anche all'interesse di Israele stesso. Ai confini orientali di Israele vi è la presenza di movimenti jihadisti che, insomma, comincia ad essere abbastanza preoccupante per Israele stesso. Sappiamo di quanto sta avvenendo in Iraq e in Siria con l'ISIS, che ha di fatto conquistato gran parte o una parte, insomma, del territorio iracheno e anche siriano, e sappiamo anche che Israele stesso è molto preoccupato per quanto potrebbe accadere anche nella vicina Giordania, che è un paese che, tra l'altro, a parte essere anche lui confinante di Israele, ma è l'unico paese arabo insieme all'Egitto che intrattiene rapporti con Israele, e per cui Israele stesso ha chiesto addirittura l'intervento in qualche modo degli Stati Uniti a garanzia della sicurezza della Giordania, perché quanto sta accadendo in Iraq e in Siria potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla Giordania. La ringrazio, grazie a Stefano Torelli, ricercatore ISPI, anche per la sua chiarezza. E saluto adesso Biagio Campanella, che è ex presidente, lo è stato fino a due mesi fa, del TAR di Catania, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania. Campanella, buongiorno. Buongiorno. La chiamiamo perché sì, Oggi è uscito un articolo sul Corriere della Sera che riguarda proprio voi, riguarda il TAR di Catania. Da quel che abbiamo capito succede questo, no? Che il TAR si occupa naturalmente di giustizia amministrativa, e quindi capita anche al TAR di sanzionare delle amministrazioni pubbliche. Quando un'amministrazione non applica la decisione del tribunale che la riguarda, viene nominato dal giudice un commissario che ha il compito, appunto, di costringere l'amministrazione. Secondo quello che scrive il Corriere della Sera, questo ruolo di commissario ad acta è stato affidato per un certo numero di volte all'autista del TAR. È così? Guardi, la persona che ha avuto questo incarico, poi appunto parlo anche degli altri dipendenti, è una persona che ha un dipendente che aveva questa qualifica, perché adesso è il vice consegnatario e l'ha detto all'informatica della sede di Catania, anche è agente di pubblica sicurezza. Però quando ha ricevuto questi incarichi era effettivamente l'autista del TAR? No, perché già nel 2004, guardi, la situazione non riguarda soltanto l'autista o l'ex autista, ma un po' ci sono state un po' delle critiche per questi per eccessi, ritenuti eccessivi questi incarichi ai dipendenti. Guardi, io premetto intanto una cosa, secondo il codice del processo amministrativo noi dobbiamo nominare dei funzionari pubblici, non possiamo nominare. Per quanto riguarda la sede di Catania in particolare, nel 2004 il presidente emerito Delfa ha emanato una circolare con cui chiedeva ai dipendenti chi era disposto a fare il commissario ad acta. Sì. Uno di questi è stato appunto questo signore che allora non lo ricordo se avesse già una qualifica superiore, ma che adesso è vice consegnatario, appunto, come le dicevo. Sì. E quindi, ma già questo ce l'ha da e questo, anni. Mi scusi, la cosa che colpisce, poi al di là che sia l'autista oppure no, diciamo, incuriosisce il fatto che un autista naturalmente sia chiamato a fare eseguire una sentenza verso un'amministrazione, per così dire. La cosa che colpisce è che questi sono dipendenti del TAR e che per questo tipo di lavoro ricevono dei soldi a parte, cioè sono stati versati a 7 dipendenti 200.000 euro complessivamente. No, guarda, intanto un po' le dico di com'era la situazione. Allora, entra a Catania, diversamente che a Milano, dove sono stato 2 anni io all'inizio della mia carriera, c'è un numero enorme di ricorsi per ottemperanza che entrano. Guarda, le dico gli ultimi dati. Nel 2012 1163, 2013 1272, primo trimestre del 2014 732, perché qui, contrariamente da quello che capita nel nord, in cui non c'è, mi dicevano, un collega di Torino mi diceva, non ne abbiamo nemmeno uno, qui le pubbliche amministrazioni non pagano assolutamente al 90%. Quindi, fra tutti i problemi, gravi problemi che abbiamo al TAR di Catania, che prende 5 province, 3 milioni di persone, abbiamo quello che le pubbliche amministrazioni non pagano. E quindi fanno tutti i giudizi per ottemperanza. E quindi lei dice sono 1200 all'anno circa, possiamo calcolare. Sì, insomma. Circa, poi ci sono quelli respinte. Allora, noi ci siamo trovati di fronte a questa situazione, per cui io le dico questo. Io, pur non avendo nessun obbligo di scrivere sentenze, le ho scritte, fra cui anche quelle per ottemperanza, perché sono qualcosa di delicatissimo. Abbiamo nominato noi al 95% del personale esterno, quindi abbiamo nominato le prefetture, abbiamo nominato alti dirigenti, abbiamo nominato e ci siamo riservati una piccola parte, anche grazie a queste circolari, di darla ai dipendenti. Perché io e i dipendenti del TAR, mi scusi però non ho capito, no però aspetti allora, aspetti un attimo, dottor Campanella, così io voglio capire bene questa cosa. Io non ho capito, e le ribadisco la domanda che le ho fatto prima, perché se hai un dipendente e gli devi far fare un lavoro lo devi pagare a parte, questo non ho capito. Ma perché, guardi, a parte il fatto che i dipendenti del TAR di Catania fanno gratis gran parte dello straordinario, e a parte che hanno una preparazione, io le dicevo che al 95% nomino personale esterno, però io non vedo il motivo, cioè adesso c'è il motivo, il Consiglio di Presidenza ha detto non si fa più, non vedo il motivo per cui io non debba dare, in base al principio della par condicio, che sono in un tribunale assolutamente con un personale ridicolo rispetto a quello che sarebbe necessario, che fanno del lavoro straordinario ed essere pagato, che sono, per quanto riguarda l'esecuzione, no, ma gli straordinari vanno pagati, cioè questo quando si supera il budget, quello che viene contestato è l'altro, cioè i soldi extra, mi scusi Campanella. Ma i soldi extra, mi scusi, da un punto di vista giuridico non c'è nessun danno che vengono dati invece che a Tizio, a Caio, appartenente però. Non solo, ma dal punto di vista morale, io penso che dare un incarico a chi prende 1200 euro al mese, e per giunta qualcuno alla moglie casalinga, moralmente non sia peggio che darla a chi ce ne ha 10.000 lui e 10.000 la moglie. Io anche non mi vergogno, anzi me ne vanto, mi scusi, di aver dato una piccola fetta anche a queste persone che hanno un guardi, io non voglio polemizzare, io non so se lei ha sentito parlare del mio paese, Comiso. Sì. Ecco. le dico questo, non lo fai di Pappolesi. Abbiamo ancora 30 secondi. Sì, Comiso fa 30.000 abitanti, sa quanti impiegati ci sono? 400. Il TAR di Catania, 3 milioni di persone, sa quanti impiegati ci sono? 30. Poi veda un'ultima cosa, una volta, quanti ricorsi per ottemperanza ne entravano molto di meno? Allora venivano, siccome nella sentenza si dice tu comune, se non ottemperi sei denunciato eccetera, e allora ogni commissario nominato, diciamo il 90% dei casi il comune pagava, ora siccome non pagano perché non ci sono soldi nessun comune, va a finire che una persona che veniva nominata 10 volte e l'incarico effettivo lo assumeva una volta, adesso ci siamo trovati con i comuni che non ha pagato nessuno e tutti questi commissari, sia esterni sia interni, ripeto non più del 5%, hanno dovuto prendere l'incarico e ci sono state questi, però questi numeri esagerati perché sono quasi raddoppiati, sono all'ordo e questo. Allora, Campanella, abbiamo capito che cosa dice lei e come reagisce, e voglio solo una piccola nota a margine su tutto questo. Se permettete, è anche abbastanza assurdo che si debbano nominare dei commissari perché delle amministrazioni, quindi dei pezzi dello Stato, ottemperino a delle sentenze, che anche questo è un ragionamento da fare. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È stato ucciso a Roma l'uomo considerato il cassiere di Gennaro Mockbell, implicato nella vicenda Fastweb Telecom Italia Sparkle. È stato trovato ferito in strada un 29enne, secondo gli inquirenti potrebbe aver fatto parte del comando. Il PM Eugenio Fusco ha chiesto la condanna a 6 anni di carcere per l'ex amministratore delegato e presidente di Finmeccanica Giuseppe Orsi. Il processo è quello in corso a Busto Arsizio per corruzione internazionale. 2 ore d'incontro, poi la notizia che il patto regge tra Renzi e Berlusconi sulle riforme, tempi brevi anche sulla legge elettorale. Non mi fanno paura i cani da guardia della Germania, dice il presidente del Consiglio. Il commissario Barnier in Italia aggiunge: i tempi non sono maturi per gli eurobond. La borsa. Borse in diretta. Ed è ancora una giornata positiva, mezzo punto percentuale di guadagno per il FTSE MIB, un altro mezzo punto per il FTSE O'Share, Parigi su dello 0,35%, Francoforte dello 0,6% e Londra dello 0,47%. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno di nuovo, ben ritrovata e scusa per il ritardo, oggi siamo andati un po' più avanti con i tempi. Allora, come mai le cose vanno bene oggi? Le borse sono positive, sono in attesa della riunione della Banca Centrale Europea che secondo gli analisti lascerà i tassi al minimo storico, fra 10 minuti l'annuncio, come sempre c'è attesa soprattutto per le parole del Presidente Mario Draghi che in conferenza stampa nel primo pomeriggio illustrerà gli orientamenti della BCE. Questo per quanto riguarda il quadro generale, sui singoli titoli c'è qualcosa da segnalare in particolare? Le matricole, oggi è stata la volta di Fincantieri che è partita senza particolari spunti, è praticamente invariata rispetto al prezzo di collocamento, fa più 0,06%, continuano invece gli acquisti su Fineco che dopo l'8,2% di ieri oggi guadagna un altro 3%. Sul listino principale svetta ancora Mediaset più 3,7% dopo indiscrezioni che danno per imminente l'accordo con gli spagnoli di Telefonica che prevedrebbe anche l'ingresso della compagnia spagnola nella TV a pagamento premium. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E parliamo di immigrazione adesso perché, come vi abbiamo raccontato nei titoli, ci sarebbero stati nei giorni scorsi altri 2 naufragi nel canale di Sicilia. Questa mattina Carlotta Sami, portavoce in Italia dell'UNHCR, che è, come sapete, l'organizzazione ONU per i rifugiati, è intervenuta a 24 mattino. Ascoltiamo l'intervista di Alessandro Milan. Sono in realtà 2 diversi incidenti di cui abbiamo avuto notizia parlando sulle banchine dei porti di Catania e Porto Empedocle ieri e l'altro ieri con i profughi che sono arrivati. Allora il primo, quello che riguarda appunto i profughi che sono arrivati a Catania, sarebbe avvenuto circa 3 giorni fa e ci hanno riportato di un gommone che si è ribaltato e di aver perso almeno 70 altri compagni, e c'è un'inchiesta della Procura di Catania su questo. Il secondo riguarda invece un barcone che è andato in avaria con molti bambini bruciati dal sole, non mangiavano più, hanno iniziato a bere l'acqua salata e quindi ad avere allucinazioni, e alcune persone sono cadute e altre due rifugiati siriani si sono buttati in mare per cercare soccorsi, ma purtroppo sono stati visti annegare dagli altri compagni di viaggio. Queste insomma le ultime due vicende, ma purtroppo sono solo le ultime due in ordine di tempo. Senta, lei come ben sa, molti italiani dicono c'è troppo buonismo. Lei come risponde nell'accogliere ovviamente tutte queste persone? Lei come risponde? Ma è un forse dicono questo perché sono disinformati o male informati. Forse non si è abbastanza chiari nel dire che la maggior parte delle persone che arrivano sono rifugiati, cioè persone che scappano dalla guerra. Io dico sempre persone come i nostri nonni e i nostri bisnonni che fuggivano dalle pulizie etniche, dalla guerra, e che avevano diritto ad essere accolti, e a maggior ragione hanno diritto loro, visto che esiste una convenzione di Ginevra che obbliga tutti gli stati ad accoglierli e a dare loro soccorso. Per cui il buonismo non c'entra nulla, non è sicuramente un imperativo morale, forse, immagino e spero, per la maggior parte delle persone, ma è soprattutto un obbligo internazionale degli stati. Il capo di Stato Maggiore della Difesa oggi viene intervistato dalla stampa e dice: Mare Nostrum è un'operazione giusta perché salviamo, oltre alle persone, e contrastiamo anche gli scafisti, e quindi cerchiamo di fermare queste persone che fanno questi viaggi della disperazione. Secondo lei Mare Nostrum è una politica azzeccata da parte del nostro governo? Penso che rimarrà nei libri di storia, perché il problema dei morti in mare in fuga da guerra e persecuzione è un problema che riguarda non solo il Mediterraneo ma altri mari, ma Mare Nostrum è la prima operazione di questo genere. È sicuramente un'operazione di carattere umanitario. Noi ci auguriamo che possa continuare ed essere anzi espansa a livello europeo. Ed è anche vero che è estremamente importante, perché per la prima volta ha consentito in modo organizzato di intercettare ed arrestare gli scafisti, che non ci dimentichiamo sono coloro che lucrano. A Genova adesso la provincia ha deciso l'anno prossimo, per l'anno scolastico prossimo, il sabato le scuole superiori rimarranno chiuse, motivo: mancano i soldi. Dal governo arrivano e arriveranno sempre meno risorse. Il bilancio della provincia di Genova è all'osso, e allora il commissario straordinario Piero Fossati è costretto a comportarsi come un padre di famiglia che cerca di risparmiare su tutto, anche su gas, acqua e luce. Succede così che da settembre, alla riapertura, gli edifici scolastici che ospitano istituti superiori resteranno chiusi il sabato a beneficio delle bollette, un giorno in meno di apertura, consumi proporzionalmente ridotti. La decisione è stata comunicata dalla provincia di Genova con una circolare inviata ai dirigenti scolastici, nella quale vengono invitati a rimodulare gli orari delle lezioni su 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Nella nota viene spiegato che la misura è causa, si legge, del perdurare della crisi finanziaria determinata dai pesanti tagli ai trasferimenti agli enti locali e aggravata dai provvedimenti governativi. La circolare si chiude con l'auspicio che la situazione in futuro possa migliorare. Nel frattempo, al sabato, le scuole resteranno chiuse. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E chiudiamo questa parte parlando di una serie televisiva americana, House of Cards, che non potrà essere girata nel Palazzo di Vetro. Che adempirò con lealtà ai doveri di Presidente degli Stati Uniti. Che adempirò con lealtà ai doveri di Il potere è come il mercato immobiliare, quello che conta davvero è la posizione. Più sei vicino al centro, più alto sarà il valore della proprietà. Un dispetto agli Stati Uniti, un'occasione persa per la propaganda anti-americana, oppure l'indizio di una reale incombente crisi politica? Comunque lo si voglia vedere, il no di Mosca alle riprese di House of Cards nell'aula del Consiglio di Sicurezza dell'ONU fa notizia. I 15 devono potersi riunire in un qualsiasi momento, avrebbe obiettato la delegazione russa alla richiesta dei produttori della super premiata serie TV sugli intrighi della politica di Washington di girare due puntate di notte e nel fine settimana nel luogo simbolo della politica internazionale. Richiesta che aveva ricevuto l'avallo del segretario generale Ban Ki-moon, felice di aumentare la visibilità dell'ONU nel pubblico, in un momento in cui le Nazioni Unite corteggiano assiduamente Hollywood per usarne lo star power a fini umanitari. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Il presidente americano e la Casa Bianca hanno condannato l'uccisione atroce di un ragazzo palestinese, di un ragazzo che si chiama Mohammed Abu Kedar, di 17 anni, che sarebbe stato rapito a Gerusalemme da un gruppo di estremisti israeliani e che volevano vendicarsi a loro volta del rapimento e dell'uccisione di tre ragazzi israeliani di 16 e 19 anni e i cui cadaveri sono stati ritrovati appena pochi giorni fa. È come se il terrorismo a questo punto, la vendetta personale, il rifiuto della legge prendesse piede a livello generale. Il caos. Un caos peraltro generalizzato nella regione, perché vi ho parlato nei giorni scorsi di quello che è successo con l'ISIS, è nato il nuovo califfato, il primo califfato addirittura islamico dalla caduta dell'impero ottomano, vi ho raccontato di quello che è successo in Iraq, l'Iran che improvvisamente sembra allearsi con gli Stati Uniti, ci sono altri focolai in altre regioni ovviamente, sappiamo quello che sta capitando in Ucraina, ma il fatto che si aggiunga a questo punto improvvisamente con tensione altissima la questione israeliano-palestinese Hamas, devo dire preoccupa, perché va a inserirsi in una situazione, vi dicevo, che è già esplosiva. Sentiamo l'ambasciatore Nicholas Burns, che è uno dei più grandi esperti di politica estera americana, è stato numero due al Dipartimento di Stato, è stato ambasciatore a Bruxelles, insegna oggi a Harvard. Ecco, avete sentito il commento di Burns? Burns dice qui la situazione è esplosiva per varie ragioni, ma anche perché Israele potrebbe reagire in modo forse eccessivo, perché si sente circondato da quello che sta diventando un movimento islamico molto forte in Iraq, in Siria, vicino ai suoi confini. Mentre finora Israele ha avuto a che fare con degli stati nemici, ma con degli stati tra virgolette secolari, coi quali si era stabilita una dinamica anche abbastanza precisa, c'era un ruolo forte degli Stati Uniti che erano presenti nella regione e cercavano di mediare. Qualcuno dice che oggi gli Stati Uniti sono il grande assente, soprattutto nel dialogo fra israeliani e palestinesi. Ci hanno provato, il segretario di Stato Kerry ha fatto uno sforzo erculeo per cercare di prolungare quello che doveva essere un dialogo per la pace, dopodiché ha fallito. Per varie ragioni, non ci interessa qui capire perché ha fallito, ci sono mille ragioni, ma il fatto è che gli Stati Uniti sono fuori, dovrebbero essere dentro, aiuterebbe, cercano di fare qualche cosa in Iraq o in Siria. O con me in linea per parlare di questo Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera, in questo momento qui a New York a coprire quello che sta capitando in America. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Ecco Paolo, è una situazione caotica in Medio Oriente, è una polveriera esplosiva ormai, anzi esplosa su più fronti. L'America sta mandando dei soldati, ma parliamo un momento del Medio Oriente nel senso stretto del termine, cioè del negoziato di pace fra israeliani e palestinesi. L'America a un certo punto ha detto mi chiamo fuori, basta. Ha fatto male? Dovrebbe cercare di rientrare visto che la situazione sta peggiorando? L'America dovrebbe esserci, ma ha provato a esserci per un anno, diciamo al capitolo israelo-palestinese del grande Medio Oriente. esausta, ripeto, per ragioni assolutamente che non stiamo qui ad analizzare, ma esausta da un insuccesso diplomatico nel quale anche il segretario di Stato Kerr ha investito il suo prestigio, si è probabilmente messa un po' in disparte, anche perché è risucchiata da altre crisi. Ecco, però l'America in effetti ci ha provato in vari modi, ma ci ha provato storicamente, perché a partire da Camp David, con l'accordo di Camp David mediato da Carter, l'America ha sempre avuto un ruolo. Poi però non è mai riuscita ad andare oltre. Ricordiamo quando Clinton ci provò e poi doveva essere l'ultimo grande successo della sua amministrazione, poi fallì. E secondo te è meglio che la questione sia risolta, come dire, sul territorio e che se la vedono fra loro, oppure c'è l'America che fa qualche cosa di sbagliato, perché sono 30 anni che l'America ci prova, insomma, Camp David ormai è molto vecchio e non si riesce a concludere nulla? Probabilmente ha ragione Obama, la pace nasce soprattutto, ogni possibilità d'accordo nasce soprattutto dalla volontà dei protagonisti sul campo, quindi ogni mediazione esterna può avere, lascia il tempo che trova, fino a quando non esiste una volontà reciproca da ambedue le parti. Quindi in questo senso ha ragione Obama nel dire dovete prima di tutto risolvere voi i problemi. Quindi in questo senso io non credo in questo momento, ecco, io non credo che in questo momento ci sia molto di più di quanto non abbia già fatto che gli Stati Uniti possano fare per agevolare il dialogo israelo-palestinese. Ecco, e quindi infatti devo dire condivido Paolo, perché l'America ci ha provato un anno, non ci è riuscita, a questo punto dice ragazzi vedetevela voi, anche se sembra che un imperativo morale, no, abbiamo visto il Papa, ne ha lanciato uno, potrebbe essere auspicabile, però l'America è esposta su più fronti proprio nella regione. Paolo, è possibile separare quello che succede tra israeliani e palestinesi da quello che succede in Siria, da quello che succede con l'ISIS, da quello che succede in Iraq, da quello che succede in Iran? Dal punto di vista della riflessione strategica no, dal punto di vista concreto dei fatti sì, perché ognuno di questi tavoli procede un po' per conto suo, anche se ovviamente nel caso della Siria per esempio c'è il collegamento con l'Iran e con l'Iraq, però di fatto queste cose, queste crisi, l'azione in queste crisi è separata. Ecco Paolo, concludendo, secondo me la questione risale a quello che fu il vertice di San Pietroburgo, quando Obama a un certo punto volta le spalle, secondo alcuni, all'Arabia Saudita perché apre all'Iran e al negoziato nucleare, volta le spalle a Israele perché cambia linea sulla Siria, accetta l'apertura di Putin che offre un disarmo chimico siriano, e questi due paesi si sono sentiti abbandonati da quello che doveva essere il loro tradizionale alleato. Ecco, alcuni dicono che la situazione caotica di oggi, cioè l'Iraq smembrato, la Siria smembrata, il nuovo califfato, la grande confusione, il fallimento in Israele, dipendono anche, come dire, da un flip-flop di Obama che non ha tenuto la linea, il timone dritto. Ecco, qual è la tua posizione su questo? Secondo te ha sbagliato l'anno scorso a cambiare strategia oppure ha fatto bene? Col senno di poi è facile dire tutto nasce da lì. Io credo che in quel momento e in quel contesto Obama non avesse altra scelta e fosse la scelta giusta, cioè quella di disinnescare la crisi siriana con la trattativa sulle armi chimiche e di lanciare e di rilanciare la trattativa nucleare con l'Iran. In quel momento credo siano state le scelte giuste. Poi in quest'anno sono intervenuti anche fattori imponderabili che non erano assolutamente previsibili un anno fa a San Pietroburgo e che hanno contribuito a creare il caos attuale. Ragionare col senno di poi non credo serva molto, è vero che comunque gli Stati Uniti devono impegnarsi e rilanciare il ruolo della diplomazia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di pace che non c'è, sembra impossibile davvero intavolare un dialogo fra israeliani e palestinesi. E dunque, ma chissà che un giorno questo non succeda. E dunque vi propongo come auspicio degli Strokes, Someday. I see it always times again. York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Come ampiamente previsto dopo l'intervento del mese scorso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,15%. Era l'ultima notizia per effetto giorno. Un ringraziamento a Filippo Oreggi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24, effetto giorno a radio24.it per scriverci. Ci risentiamo tra un attimo con GR24. Una buona giornata da Simone Spezia.